Radio Doc, in collaborazione con History Channel. Buonasera e ben ritrovati a Radio Doc. Radio 24, in collaborazione con History Channel, vi presenta questa sera un documentario sulla storia dell'universo, in particolare sulla possibilità di avere nuove forme di vita oltre il Sistema Solare. Sono stati scoperti migliaia di nuovi pianeti, ma è possibile che su alcuni di loro ci siano o si possano sviluppare delle forme di vita vicine a quelle umane. La versione integrale del documentario che state per ascoltare andrà in onda lunedì 19 ottobre alle 11.30 su History Channel. Esistono pianeti al di là del nostro sistema solare? In pochi hanno osato rispondere a questa domanda. Ora sono stati trovati centinaia di mondi esotici. È possibile che uno ospiti forme di vita aliena? Siamo forse sul punto di scoprire una nuova Terra? Studi all'avanguardia, strani mondi e atmosfere ostili. Esploriamo l'universo alla ricerca di pianeti alieni. Nella costellazione Pegaso, a una distanza di 50 anni luce dalla Terra, si trova un pianeta mostruoso. È un gigante di gas incandescente, simile per massa a Giove, che ruota attorno alla sua stella in poco più di 4 giorni. Si chiama 51 Pegasi B e nel 1995 è stato il primo pianeta scoperto dall'uomo al di fuori del nostro sistema solare. Si tratta di una pietra miliare, ma è solo la prima tappa di una ricerca ancora più impegnativa. Quella di un pianeta che somigli di più al nostro. Per gli astronomi è l'obiettivo più ambizioso e sfuggente. Trovare un'altra Terra. Geoff Mercy, Università della California. Stiamo cercando di scoprire come considerare la nostra Terra nel più ampio contesto dell'universo. Ci piacerebbe trovare altri mondi simili al nostro, ma il problema è che è difficile. Perché i pianeti di questo tipo sono pezzi di roccia che non emettono molta luce. Nell'universo la Terra rappresenta un'eccezione o la regola? Anche se solo l'1% delle stelle avesse in orbita pianeti simili al nostro, ciò vorrebbe dire che nel cosmo ci sono miliardi di nuove terre che attendono solo di essere scoperte. Là fuori sono moltissimi quelli simili al nostro. Di questo siamo praticamente certi. Ma quanto simili? Restano ancora molte domande irrisolte sull'unicità della Terra e non sappiamo se il nostro pianeta sia o meno un'eccezione. È una domanda che ha implicazioni profonde e, a mio avviso, persino inquietanti. Le possibilità sono infinite. L'unico limite è la nostra immaginazione. Potremmo scoprire pianeti oceano, completamente ricoperti d'acqua. Gelide sfere di ghiaccio, mondi simili a Marte, ma con dense atmosfere alimentate da enormi vulcani attivi. E persino pianeti con due soli nei loro cieli. Alcuni potrebbero essere adatti alla vita umana. Altri, su cui l'uomo non metterebbe mai piede, potrebbero comunque ospitare altri tipi di creature. Anche la scoperta di un solo pianeta simile al nostro indicherebbe che il nostro mondo non è affatto un'eccezione. E se nel cosmo le terre sono qualcosa di comune, forse lo è anche la vita. Ma degli oltre 200 pianeti alieni scoperti finora, gran parte sembra del tutto inadatta alle forme di vita a noi familiari. Alex Filippenko, Università della California. Per ora abbiamo incontrato 3 tipi di mondi. Uno è quello dei pianeti molto vicini alla stella attorno a cui orbitano e sono praticamente arrostiti. Poi ci sono quelli molto lontani dal loro sole, che sono molto freddi. Infine ci sono quelli con orbite molto eccentriche, che in alcune fasi sono vicinissimi alla stella e in altre ne sono molto distanti. Quindi sono alternativamente troppo freddi o caldi. Finora non abbiamo trovato nessun mondo con giungle o foreste. In effetti, non ne abbiamo scoperto nessuno che rientri nei nostri criteri di abitabilità, che presenti acqua sulla superficie e altre condizioni ideali. È possibile che la Terra, con la sua superficie rocciosa, gli oceani e la vita abbondante, rappresenti solo un caso isolato nell'universo? Le prime scoperte di pianeti alieni devono ancora rispondere a questa domanda. Ma hanno dimostrato che questa ricerca, che un tempo sembrava futile, ha un senso. Erano in molti a credere nell'esistenza di altri mondi nell'immensa vastità dell'universo. Ma era opinione diffusa che la scienza moderna non fosse in grado di individuarli. Appena qualche decennio fa, uno scienziato che si dedicasse alla ricerca dei cosiddetti pianeti extrasolari veniva considerato alla stregua di uno a caccia di UFO. Nei primi anni Ottanta, la carriera dell'astronomo Jeff Marcy è a un punto morto. La sua ricerca sui campi magnetici delle stelle non sta dando i risultati sperati e lo scienziato comincia a dubitare delle proprie capacità. Ho iniziato a considerare l'idea di cercare altri mondi quando ormai temevo che la mia carriera fosse finita. Ho pensato che come scienziato non avessi più speranze e che a quel punto tanto valeva tentare qualcosa su cui nessuno avrebbe mai puntato, vale a dire cercare pianeti attorno ad altre stelle. Molti erano convinti che non ne avremmo trovato nessuno. Prima che Jeff Marcy, il suo collaboratore Paul Butler e un pugno di coraggiosi astronomi in giro per il mondo possano iniziare la loro ricerca di pianeti alieni, devono prima perfezionare un metodo per individuarli. Trovare una stella con un telescopio convenzionale è facile, ma scovare un pianeta richiede ingegno e pazienza. A differenza delle stelle attorno a cui orbitano, i pianeti sono piccoli ed emettono poca luce. Persino il gigante del nostro sistema solare, Giove, la cui massa è un migliaio di volte più piccola di quella del Sole, è 10 miliardi di volte meno luminoso. Se è vero che gli astronomi non possono osservare direttamente i pianeti a causa della loro scarsa luminosità, possono comunque registrarne l'effetto gravitazionale sul Sole attorno a cui orbitano. Una stella senza pianeti dovrebbe attraversare il cielo in modo uniforme, mentre una con pianeti dovrebbe mostrare un significativo movimento circolare. Ma poi, nel 1995, arriva a sorpresa l'annuncio degli astronomi svizzeri Michel Mayor e Didier Queloz. I due scienziati hanno scoperto un gigante gassoso orbitante attorno alla stella 51 Pegasi. Marcy e Butler si precipitano all'osservatorio Leak, situato sul Monte Hamilton, in California, e puntano il loro telescopio sulla stella per avere una conferma sulla scoperta dei colleghi elvetici. Nonostante la monumentale portata della scoperta, il corpo celeste, come tutti i futuri pianeti extrasolari, non prenderà il nome di un dio greco o romano. Assumerà il nome del catalogo astronomico della sua stella ospite, 51 Pegasi, seguito da una B minuscola. Con questo sistema di nomenclatura, nel caso venga scoperto un secondo pianeta attorno alla stessa stella, prenderebbe una C minuscola e così via, in ordine alfabetico. Ma nonostante il nome poco evocativo, 51 Pegasi B è eccezionale. La sua scoperta scuoterà fin nelle fondamenta la nostra comprensione dei pianeti. Radio Doc. Riprendiamo con la seconda parte del documentario dedicato agli studi sulla possibilità di vita aliena nel nostro universo. Le scoperte sul sistema solare non accennano a diminuire, come dimostrano gli studi di Michel Mayor e di Didier Queloz. Giove orbita attorno al Sole da una distanza di circa 800 milioni di chilometri. 51 Pegasi B dista invece circa 8 milioni di chilometri dalla sua stella. Se lo inserissimo nel nostro sistema solare, questo pianeta alieno diventerebbe il più vicino al Sole, strappando questo primato a Mercurio. Ma 51 Pegasi B non è un caso isolato. È il primo di decine di cosiddetti pianeti gioviani caldi, scoperti in orbite così ravvicinate da sembrare impossibili. La rivoluzionaria caccia iniziata negli anni 90 ha spazzato via la vecchia teoria secondo cui nell'universo i pianeti sono rari. Man mano che la lista di mondi alieni si allunga, gli astronomi cercano di scoprire qualcosa di più sui 200 che hanno già scoperto. La tecnica Doppler usata da Jeff Marcy e da altri suoi colleghi permette di determinare la massa o il peso di un pianeta, ma non le dimensioni. Per capire quanto è grande un mondo alieno, bisogna avere un pizzico di fortuna. L'orbita deve essere allineata in modo tale da permetterci di osservare il pianeta quando passa davanti alla sua stella. è il metodo del transito. Misurando fino a che punto la luce della stella si affievolisce nella fase di transito, gli astronomi determinano le dimensioni del pianeta. Ogni nuova scoperta nel campo dei pianeti extrasolari sembra porre alla scienza tutta una serie di affascinanti interrogativi. All'Università dell'Arizona, lo scienziato planetario Adam Showman studia il clima su altri mondi. Di recente, Showman ha contribuito a dare le prime previsioni meteo per un pianeta al di fuori del Sistema Solare. E quello che è riuscito a scoprire è davvero roba dell'altro mondo. Riteniamo che ci siano venti a circa 9.000 km orari, forse anche più forti. Qualcosa di inaudito rispetto a quelli del nostro Sistema Solare. Nell'estate del 2007, gli scienziati usano il telescopio spaziale Spitzer, grazie al quale, osservando le lunghezze d'onda dell'infrarosso associate al caldo, può generare una rudimentale mappa della temperatura su entrambe le facce del pianeta. La Terra fa registrare le velocità più basse di tutto il nostro sistema, con una media di 32 km orari. Sui giganti gassosi, invece, i venti sono molto più forti, perché non vengono rallentati dall'attrito con una superficie. Su Giove e Saturno, per esempio, i venti spirano a centinaia di chilometri orari, cioè a un decimo della velocità che si registra su questi gioviani caldi. Il clima sui gioviani caldi sarà anche estremo, ma quello di un'altra classe di pianeti alieni, i giganti eccentrici, sembra ispirato a un film del genere catastrofico. L'universo è capace di creare i mondi più strani, persino in luoghi insospettabili. Se la natura riesce a creare nuovi mondi anche in circostanze così difficili, allora è molto probabile che l'universo ne sia pieno e che da qualche parte nel cosmo ci siano pianeti simili alla Terra che aspettano solo di essere scoperti. Ma se è questo il caso, allora dove sono? Perché non li abbiamo ancora trovati? Gli astronomi continuano a esaminare i sistemi solari alieni e si è sempre più vicini alla scoperta di pianeti simili alla Terra. Che caratteristiche deve avere un pianeta simile alla Terra? Dovrebbe essere composto soprattutto di roccia, con acqua sufficiente per degli oceani, ma che non impedisca la formazione di terre emerse. E deve trovarsi nella fascia abitabile del suo sistema solare. Ma nei sistemi extrasolari la fascia abitabile dipende dal calore emanato dalla stella. Per avere maggiori probabilità di trovare pianeti simili alla Terra, dobbiamo cercare attorno a stelle più deboli e relativamente fredde, note col nome di nane rosse. Attorno a una di queste nane rosse, chiamata Gliese 876, sono stati trovati almeno tre pianeti. Due sono giganti gassosi, ma il terzo, Gliese 876d, è uno dei più piccoli scoperti finora, con una massa pari a 6 o 7 volte quella della Terra. E si trova anche al limite della fascia abitabile della stella. Quando viene scoperto, gli scienziati lo definiscono la prima delle superterre. Tuttavia, gli esperti non possono avere la certezza che si tratti di un grande pianeta roccioso. Come Gliese 436b, potrebbe essere completamente sommerso da un oceano di acqua molto densa. Dunque, la caccia al primo pianeta simile alla Terra continua. All'Università dell'Arizona, l'astronomo Laird Close spera di catturare la prima immagine di una Terra aliena. Ma sarà necessario che la tecnologia faccia enormi progressi nel campo dei telescopi. Il telescopio, il cui completamento è previsto per il 2016, ci fornirà immagini fino a 10 volte più nitide di quelle del telescopio spaziale Hubble. Tutti gli astronomi che hanno dedicato la loro vita a questa ricerca sono convinti che trovare il primo pianeta simile alla Terra sia solo questione di tempo. Prima di chiudere, vi segnaliamo che la versione integrale del documentario che avete ascoltato andrà in onda lunedì 19 ottobre alle 11.30 su History Channel. Un ringraziamento in redazione a Manuela Sicuro. Radio Doc vi dà appuntamento a domenica prossima. Buonanotte.